vicina primavera. Senti che il tuo cuore sogna e spera che ritorni il più bel sole con le rose dell'aprile. Che fiorisca il vero amore per la tua felicità. Che son rose, che son rose fioriranno, ma le spine innocente pungeranno. C'è chi sogna la fortuna, di una gioia aspetterà, di una donna biondo bruna che sa dire la verità. Se son rose, se son rose fioriranno, ma chi lo sa. Viva, e nell'estasi felice, baci, chi baciando ti dice. Sei il mio amore preferito, sei la prima che ho baciato. Quando il mandorle fiorito tu sarai la mia metà. Se son rose, se son rose fioriranno, ma le spine, chi lo sa, se pungeranno. Chi sogna un milioncino di una grande eredità, sogna il vecchio libertino di tornare la bella età. Se son rose, se son rose fioriranno, ma chi lo sa.